ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Mille, da Genova a Capua, di Giuseppe Bandi. La vittoria di Milazzo mi sembra ancora miracolosa, ma devo dire che lì sul fatto mi sbalordì. Ero in Milazzo e dicevo meco stesso, o come diavolo ci siamo entrati? Bosco aveva 5.000 uomini e più, aveva 2 batterie da campagna e quasi 30 pezzi sulle mura. Aveva per sé un istmo molto stretto, i canneti profondi e le viuzze chiuse tra le mura degli orti e parecchi altri vantaggi. Noi non avevamo in principio del combattimento che forze assai inferiori, 2 cannoncini ridicoli e tutte le maledizioni congiurate a nostro danno. Ma Bosco non era Garibaldi, né i volontari di Garibaldi erano i soldati di Bosco. Perdemmo in quel fatto d'arme oltre 650 tra morti e feriti. I borbonici ne perdettero assai meno. I soldati di Bosco giuravano d'aver combattuto contro 10.000 uomini e forse più, e non ci fu caso di persuaderli della verità. Intanto Garibaldi, non uso di dormire sugli allori, ordinò si asserragliassero le strade che mettevano al castello e fe disporre buone guardie anche al di fuori della città, dalla parte per cui la guarnigione avrebbe potuto escir fuori dalle mura e accoccarci all'improvviso qualche brutto tiro. Mi coricai quella notte sulla terra nuda, accanto a fasce delle armi, ma non chiusi mai occhio, giacché la fatica insolita e le vive emozioni della giornata mi impedivano il sonno. Oltre a questo, i gran tonfi che qua e là si udivano e i canti sfrenati dei volontari e dei villani che erano entrati a frotte e spalancate le porte di Milazzo mi tenevan desto e mi facean sospirar la luce per correre a mettere a dovere le bande dei matti e le caterve dei birboni che, approfittando delle fatiche nostre, erano in Milazzo a far d'ogni lana un peso. Appena cominciò a ricomparire la luce, me ne andai giù per la marina e vidi Garibaldi steso sugli scalini d'una chiesa, che dormiva il beato sonno. Gli erano accanto alcuni suoi familiari, che egualmente dormivano, e nessuno avrebbe immaginato per fermo che fosse quello l'alloggio di un generale vittorioso in tanta vicinanza del nemico che tuttavia minacciava. E di fatto non era colà una sentinella, né v'era altri che vegliasse il riposo suo. E ben poteva dirsi che Garibaldi dormiva tranquillo sotto l'usbergo del sentirsi puro. Mi guardai bene dal destarlo e mi sedetti vicino a lui. Dopo qualche momento si destò e, alzati il capo, mi vide e mi stese sorridendo la mano. «Generale», gli dissi, «ben può dirsi che avete dormito sugli allori». Garibaldi sorrise e ancora mi disse: «Ebbene, che c'è di nuovo?» «Niente», risposi. «La notte scorsa quietissima. Soltanto alcuni furfanti hanno scassinato l'uscio di qualche casa e vanno tuttora rubacchiando per la città». Garibaldi si turbò forte e volle che gli narrassi tutto quel che sapevo. In quel mentre giunsero alcuni ufficiali e confermarono le mie asserzioni, soggiungendo essere indispensabile qualche provvedimento severo per ridurre a dovere i pochi scapestrati che davano il mal esempio e facevano torto a tutti i buoni. Mi fu allora ordinato che pigliassi meco quanta più gente potevo e scorressi la città, arrestando quanti cogliessi commettere malanni. Feci prendere le armi a 2 compagnie di malenchini che avean fatto i fasci sulla piazzetta che sta dinanzi alla chiesa e cominciai la mia ronda. In capo a mezz'ora tornavo dal generale traendo meco una 60ina di poltroni, tra i quali erano 2 francesi insolentissimi sopra gli altri. «Ecco», dissi, «ecco la gente che vorrebbe disonorarvi». Garibaldi non mi lasciò finire, ma intonò subito una di quelle paternali che facevano accapponare la pelle ai più riottosi e spavaldi, e concluse, volgendosi a me: «Trascinateli lontano da me e fucilateli come tanti cani». Non ho parole per dire come rimasero quegli sciagurati ghiottoni, ma chiunque sappia qual fosse il terrore che incuteva ai birboni la voce del gran capitano potrà di leggeri immaginarlo. Non sapevo come avrei fatto ad eseguire quell'ordine, trattandosi di tanta gente. Pure ordinai fianco destro alle 2 compagnie e feci marciare in mezzo alle file i dannati che cominciavano a piangere e a raccomandarsi in visceribus. Sapevo bene che Garibaldi non era uomo da imitare le feroci giustizie degli inglesi nelle Indie, ma non volevo essere io quello che sembrasse discutere i suoi ordini. Seguitai dunque a far marciare le mie genti coi condannati nel mezzo, né comandai alto finché la voce del generale non mi chiamò. «Non li fate fucilare, veh!» mi gridò il generale. «Strapazzateli ben bene e consegnateli alla guardia del campo!» Udendo promulgare questa amnistia, i malcapitati si riebbero e parvero tornare da morte a vita. Io dissi loro corna, e cercato il generale Sirtori, glieli consegnai perché li pigliasse nella sua degna e santa guardia. Tornato presso Garibaldi, lo trovai intento a dar certi ordini agli aiutanti di campo, i quali scesero sopra una barca e pigliarono il largo. Vedendolo accigliato e quasi nero, non mi arrischiai a volgergli la parola, ma egli, rasserenatosi, mi chiamò a sé e mi disse: «Venite, facciamo colazione!» Venne imbandito lì sugli scalini della chiesa un pezzo di tonnina e il buon Fruscianti stappò una bottiglia. Vedendo che non mi giovavo di quella maledetta vivanda, Garibaldi mi chiese: «Non vi piace forse la tonnina?» «Non dirò», risposi, «la tonnina, quando è buona, può parer buona, ma a certe ore». Mentre così dicevo, comparve Gusmaroli con un pezzo di carne arrosto, e allora il generale mi guardò sorridendo come per dirmi: «Oh, questa, vi piace?» In quel tempo il governo del re Borbone, sventolando in faccia ai popoli la bandiera tricolore, si fingeva spasimante per l'alleanza col Piemonte e prometteva abbandonare a se stessa la Sicilia purché si proibisse a Garibaldi di passare nella terraferma. Sono note, a questo proposito, le trattative che ebbero i borbonici col conte di Cavour, e notissima è altresì la ragione con la quale lo scaltro ministro del re Vittorio gingillò le povere volpi napoletane, dando a vedere ad esser capace d'un inganno e mezzo a petto di chi veniva a lui con l'inganno nel cuore e con la frode sulle labbra. Nessuno dubitò allora che Francesco II, mentre accarezzava Vittorio Emanuele e pareva raccomandarsi a lui come all'unico e desiderato salvatore, non tenesse segrete pratiche con l'Austria e non sovillasse il Papa e lo Zar e finanche la regina di Spagna, cercando dappertutto nemici al monarca garibaldino e a Garibaldi suo maestro e al conte di Cavour, diavolo tentatore ed ispiratore di ambedue. Comunque fosse, io dirò che il giorno dopo la battaglia capitarono nel porto di Milazzo due vapori da guerra francesi, e siccome la Francia si dava l'aria di gran pacera ed anche di tutrice premurosa del giovane malavventurato re Borbone, i comandanti di quei legni entrarono subito a discorrere di un componimento tra Bosco e Garibaldi. Chi si facesse mediatore per intavolare le trattative non saprei dirlo, ma certo è che Garibaldi espose i suoi fatti e Bosco, riputandoli troppo gravi ed anco ignominiosi, li rifiutò giurando che prima di rendersi a discrezione saprebbe far saltare il castello e sé e tutti i suoi. Due giorni dopo, verso mezzodì, 4 o 5 legni da guerra napoletani furono ad un tratto alle viste e con nostra indicibile sorpresa entrarono in porto. Garibaldi, che prevedeva sin da principio qualche molesta visita, aveva collocato il Tacheri quasi in secco dietro una scogliera in fondo al porto, in modo da trasformarlo in una specie di batteria, i cui grossi pezzi avrebbero non mediocremente inquietati gli ospiti arroganti. Ma il Tacheri non ebbe duopo di incomodarsi a tirare, poiché dalla maggiore delle fregate venne a terra un ufficiale dello Stato Maggiore borbonico, il quale annunziò a Garibaldi essere venuto per trattare le condizioni della resa del castello e per portare via il Bosco con tutta la sua gente. Garibaldi acconsentì a lasciare uscire dal castello la truppa in arme e bagaglio e con gli onori di guerra, ma volle che il castello gli si consegnasse con tutte le artiglierie e con tutte le munizioni e provvigioni, coi cavalli, coi muli, con le bardature e con quant'altro vi si trovasse dentro. Ora, in una lettera intercettata indossa una donna uscita da Milazzo, il colonnello Bosco millantava per l'appunto che sarebbe tra non molto entrato trionfalmente in Palermo sul cavallo di Medici. Orbene, per punire quell'insigne tratto di spavalderia, volle Garibaldi che i cavalli di Bosco non fossero esclusi dalla consegna pattuita nei capitoli della resa, e così il più bel cavallo dell'infelice millantatore fu donato a Giacomo Medici, che ne fece pompa entrando pochi giorni appresso in Messina. L'imbarco dei regi e la consegna del forte ebbero compimento nelle ore pomeridiane del dì 5 di luglio. Di buon mattino alcuni grossi legni da trasporto francesi entrarono nel porto. 2 ore dopo il mezzodì i nostri battaglioni cominciarono a schierarsi per assistere al passaggio del nemico patteggiato. Il reggimento del Malenchini toccava con la sua estrema sinistra la porta del castello. Poi veniva un reggimento di Cosenz e via via giù sulla marina erano schierati tutti gli altri. Avevamo ordine di far presentare le armi ai borbonici, che dovevano, dal canto loro, salutarci, passando dinanzi a noi. I battaglioni napoletani passarono in bellissima ordinanza. Erano in buon arnese e forniti di ottime armi. I soldati apparivano ben nutriti e animosi e ci guardavano di traverso. Gli ufficiali salutavano con le sciabole, ma dai loro sguardi si conosceva che molto più volentieri ce l'avrebbero confitte nel cuore. Sul principio, quella magnifica processione andò tranquilla in mezzo a un profondissimo silenzio. Gli abitanti di Milazzo, rientrati per la massima parte in città, e le genti accorse in gran folla dai paesi e dalle campagne circostanti, assistevano a bocca aperta a quel nuovo spettacolo e non si arrischiavano a fiatare. Ma quando escì dal castello il famoso Bosco, la cosa mutò aspetto, e la folla, poc'anzi rispettosa e muta, divenne in un baleno la folla più sfrenata e più impronta che mai mettesse a soqquadro una città. Gli urli, i fischi, le imprecazioni che salutarono il povero colonnello sono impossibili a descriversi, e fu veramente nostro merito e frutto dei nostri sudori e della nostra costanza, se oltre le imprecazioni, i fischi e gli urli, non ebbe qualche più solenne attestato dell'odio che gli portavano i siciliani. Giunto che fu sulla marina, fu necessario adoperar le mani per difenderlo dall'improntitudine della folla furente, e quando ebbe messo piede sulla barca, le grida lo seguirono fino alla nave, dove ebbe pace in mezzo ai suoi. I regi ebbero finito di imbarcarsi quando era già notte e partirono con l'aiuto di Dio, lasciandoci padroni della città e del castello e liberi di poter correre senza ombra di pensiero fin sotto le mura della cittadella di Messina, che aveva fama di inespugnabile. Quando partimmo da Milazzo, il nostro piccolo esercito era quasi raddoppiato. Venuta è l'ora di ieri. Io ti saluto e tu non mi scordare, ti lascio sto cuore caroso, sta barca fuori, questo mare asciutto. Cura un trovai e manco rotta, chi tra deserti mi conosci all'acqua, provaci tu, io mi ne vaio da questo porto di nave di pesce. Il generale Medici, che ci aveva preceduti in Messina con l'avanguardia, stipulò col generale Clary la resa della città, riservando alle truppe regie soltanto la cittadella, la quale, era convenuto, non farebbe alcun atto ostile contro di noi se avessimo mantenuto la fede di non assalirla. Entrammo dunque in Messina con gli schioppi in spalla e dimorammo per diversi giorni nella bella e piacevole città che dà nome allo stretto, preparandoci a passare nella terraferma per compir l'opera e sciorre il voto. Garibaldi era tutto assorto nel meditare il modo più sicuro e più pronto di effettuare quel passaggio ed appariva cupo e pensieroso. In quei giorni, che chiamerò di tregua, perché le armi furono quiete da una parte e dall'altra, la politica tornò a far capolino nel quartier generale del dittatore, e i tentativi per trasformare la sua impresa si rinnovarono. Questa volta non si chiedeva solo il plebiscito dei siciliani, ma si voleva che si rinunziasse a proseguire l'opera della redenzione nella terraferma. La notizia di quei maneggi trapelò sino a noi, ma tanta era la fede che avevamo nel glorioso nostro capo che non dubitammo mai neppure alla lontana che ei fosse per acconsentire ai troppo prudenti consigli di certi prudentissimi consiglieri e volesse troncare a mezzo la impresa più splendida della sua vita. Giunse in quei giorni e fu veduto da noi un signore che ci fu detto essere un aiutante di re Vittorio Emanuele. Nessuno di noi seppe precisamente l'oggetto della venuta di quel signore, ma nessuno immaginò che ei fosse venuto per suo diporto o per recare al dittatore il collare dell'annunziata. La lettera che il detto aiutante di campo recò a Garibaldi si conobbe soltanto qualche anno dopo, ed è bene riprodurla per vedere come andassero le cose. Ecco la lettera del re. «Generale, voi sapete che io non ho approvato la vostra spedizione, alla quale sono rimasto assolutamente estraneo. Ma oggi la posizione difficile nella quale versa l'Italia mi pone nel dovere di mettermi in diretta comunicazione con voi. Nel caso che il re di Napoli concedesse l'evacuazione completa della Sicilia dalle sue truppe, se desistesse volontariamente da ogni influenza e si impegnasse personalmente a non esercitare pressione di sorta sopra i siciliani di modo che essi abbiano tutta la libertà di scegliersi quel governo che a loro piacesse meglio, in questo caso, io credo che ciò che per noi tornerebbe più ragionevole sarebbe rinunziare ad ogni ulteriore impresa contro il regno di Napoli. Se voi siete di altra opinione, io mi riservo espressamente ogni libertà di azione e mi astengo di farvi qualunque osservazione relativamente ai vostri piani. E il generale rispose, «Sire, la maestà vostra sa di quanto affetto e riverenza io sia penetrato per la sua persona e quanto brami d'ubbidirla. Però, vostra maestà, deve poi comprendere in quale imbarazzo mi porrebbe oggi un'attitudine passiva in faccia alla popolazione del continente napoletano che io sono obbligato di frenare da tanto tempo e da cui ho promesso il mio immediato appoggio. L'Italia mi chiederebbe conto della mia passività e ne diverrebbe immenso danno. Al termine della mia missione io deporrò ai piedi di vostra maestà l'autorità che le circostanze mi hanno conferito, e sarò ben fortunato d'obbedire per il resto della mia vita». Questa lettera fece intendere a Torino che Garibaldi non era l'uomo da lasciare le cose a mezzo, e che la bandiera spiegata a Marsala doveva sventolare quanto prima in Napoli sul palazzo dei Borboni. Garibaldi non ci tenne in Messina che due giorni o tre, e lasciando quivi un po' di guarnigione per tener d'occhio la cittadella, a ciò da quella parte non si facessero novità, ci condusse tutti a Capo di Faro, ove pose il quartier generale e preparò una flottiglia numerosa di barche, alla quale tennero in breve compagnia parecchi piccoli vapori noleggiati qua e là. A difesa di questo arredo marittimo fece innalzare diverse trincee che munì coi grossi cannoni trovati nel castello di Milazzo e in certi forti di Messina. Si intendeva chiaramente che il nostro gran capitano voleva farci passare lo stretto, ma era difficile a capirsi come sarebbe possibile il farlo quando le navi borboniche, i fortini della spiaggia e le truppe accampate dietro i fortini si unissero in un serio accordo per impedirlo. Ma tanta era la nostra fede nel senno e nell'ingegno e nella fortuna di quell'uomo che nulla ci pareva impossibile con lui. E così non fu giorno in cui non dicessimo «stanotte saremo in Calabria». La lunga dimora che facemmo presso il faro fu per noi alquanto penosa in causa della scarsità dell'acqua e della malaria che generava le febbri. Non c'erano tende, non c'erano baracche e neanche legname per costruirle, giacché in quei colli non si trovavano se non viti e qualche ficaia e qualche altro albero da frutto. Io mi recavo spesso alla marina e mi tenevo felicissimo di poter dormire in qualche barca e come me fecero parecchi, ma i sonni nostri erano tutt'altro che placidi e lunghi, giacché ogni notte c'era gazzarra di cannonate e fuochi di fucileria per parte dei regi che dalle navi o dalla spiaggia tiravano contro le nostre barche, che sempre erano in moto per vedere di farla in barba alla crociera. I tentativi di sbarco si ripeterono infruttuosi per alquante notti, ma in una bella notte che fu precisamente quella dell'8 di agosto, uno scelto manipolo di 300 uomini capitanato dal valoroso Missori scendeva in Calabria e spiegava la bandiera tricolore in mezzo a quel popolo robusto e nemicissimo sempre della dominazione borbonica. Quel giorno si sparse per campo la notizia che Garibaldi non era più tra noi. Dove è andato? Dove non è andato? Mille diverse voci correvano. Chi lo voleva a Palermo, chi a Livorno, chi a Genova e chi a Marsiglia. Chi diceva che fosse ito a sollecitare la partenza dei nuovi battaglioni che allestiva il Pianciani. Chi bucinava che fosse andata a comprare qualche grosso vapore ed armarlo per tener testa alle fregate borboniche che gli davano tanta noia. Nessuno trapelò dove veramente egli fosse, ma a suo tempo si seppe che era sceso in Sardegna. Orbene, mentre Garibaldi era assente e mentre Sirtori teneva in sua vece il comando, una grossa nave a vapore, seguita da un'altra più piccola, comparve alle viste del nostro campo. Nessuno si dette pensiero di quella visita, sebbene le due navi, senza issar bandiera di sorta, si avvicinassero a noi molto più di quel che non erano solite fare le navi borboniche in crociera. In quel mentre stavamo desinando col colonnello Malenchini in una casetta un sol piano a pochi passi dalla spiaggia, proprio sulla via dove si stendevano le poche case di cui si formava a quel tempo il villaggio. La finestra della stanza guardava il mare, e noi vedevamo le due navi avvicinarsi e stavamo guardandole. La più grossa ci parve la Carla Alberto, fregata sarda che avevamo veduta pochi giorni innanzi a Milazzo, e credemmo che l'altra più piccola fosse il Tripoli o il Mozambano. E siccome non era faccenda nostra richiedere a quelle navi i passaporti o lo indagare con quali intenzioni ci si avvicinassero, seguitammo a mangiare tranquillamente, tanto più che a Torre di Faro c'era lo stato maggiore di Garibaldi e c'era Sirtori che doveva far guardia per tutti. I due misteriosi visitatori vennero avvicinandosi sempre più a noi, e debbo credere anche adesso che tanto il Sirtori quanto chi comandava la batteria sulla spiaggia cadessero nello stesso inganno in cui caddi io, perché nessuno si fece vivo né ebbe il pensiero di chiedere con la voce del cannone il nome e la provenienza delle due navi e di pregarle a girar più largo da noi. Ad un tratto la nave più grossa, che era una bella fregata di 50 pezzi, alzò sull'albero maestro una cornetta rossa e tosto guizzò un lampo. E a quel lampo tenne dietro un gran tonfo, e poi lampi e di tonfi si succedettero senza interruzione. C'eravamo appena alzati da tavola, quando un grande scroscio si udì, e il tetto della casipola ci cadde sopra, cuoprendoci di graticci di canne e di calcinacci misti a qualche sasso, mentre una grossa pietra, divelta dal muro, cadea con spaventoso fracasso sulla tavola e la faceva in pezzi. Malenchini aveva il viso tutto pieno di sangue. Il dottor Tommasi, sanguinoso anch'egli, rideva come un matto. Pietro Coccoluto Ferrini si dolea ad un braccio offeso ed io ero pieno di polvere negli occhi, nei capelli ed in bocca. Uscimmo nella strada e vedemmo la gran confusione che quel repentino assalto aveva generato. I colpi si succedevano senza posa e io avevo gran paura che i due legni, avvicinandosi come facevano alla nostra flottiglia, non ce la mandassero in fiamme. Le nostre batterie, dopo una scarica generale, erano state ridotte al silenzio, ed invano gli ufficiali cercavano raccogliere i cannonieri che, sbalorditi da quella furia inattesa, si erano sparpagliati qua e là cercando un riparo contro quella pioggia di proiettili. Cessato però lo sgomento, riescì di raccogliere i cannonieri e di rimandarli ai loro pezzi. La contessa Martini, donna elegante, battagliera e amica della vita dei campi, con la sciabola in mano, aiutata da diversi ufficiali e soldati del mio battaglione, ricondusse ai pezzi gli artiglieri della batteria da 24, che era dinanzi alla chiesa, e uno di quei pezzi ficcò una palla nella carena della fregata, mentre il legno più piccolo aveva portato via da una palla la grossa lancia che recava a poppa. questi due tiri ben assestati e i tiri delle batterie vicini alle torri poterono tanto che la fregata, la quale era giunta vicinissima a noi, girò prestamente di bordo e, seguita dall'altro legno, pigliò il largo. È un l'attaccaria la mattina, ci basta chiedere che ci detti io. È un l'attaccaria la mattina, ci basta chiedere che ci detti io. Sto mare asciutto.